L'amore perfetto esiste, è l'amore per un figlio, non si spenge ma arde come una fiamma dentro. L'amore perfetto esiste, è inseguire un sogno per una vita senza mai realizzarlo. L'amore perfetto, l'amore perfetto, ah, ah. L'amore perfetto esiste, se tu incontrata e persa saluto ogni giorno, non ti riconosco, ma tu che mai incontrerò, cercherò tutta la vita, ah, ah, ah. Tutta la vita, amore perfetto, amore perfetto. L'amore perfetto, l'amore perfetto, l'amore perfetto. Dimmi dov'è l'amore perfetto, dimmi com'è l'amore perfetto.